La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Frasi più belle dette da uno sportivo l'ha pronunciata la stella del basket americano Kareem Abdul-Jabbar. La frase è: il successo per un atleta non è abbastanza per essere un eroe culturale. Quella persona deve personificare e promuovere alcuni dei valori cardine della nostra cultura. Ecco, già insomma lo scatto di qualità è già nel fatto che un atleta dica per essere un eroe culturale. Immaginate le superstar del calcio di oggi, capite insomma che siamo a altri livelli. Eh sì, perché Jabbar, assieme ad altri campioni, il primo che viene in mente ovviamente è Mohamed Ali, rappresenta il simbolo del ruolo che gli sportivi possono avere nella società, dovrebbero avere, magari e soprattutto lontano dai loro terreni di gioco, personaggi che rompono gli schemi, che si scontrano con i meccanismi, con le regole consolidate, che vanno contro. Ne abbiamo raccontati tanti, mi vengono in mente Smith e Carlos a Città del Messico con il loro pugno alzato contro il cielo, contro il razzismo. Insomma, gli sportivi possono fare tanto. La protagonista di oggi è proprio una che ha fatto tanto e che ha frantumato parecchi schemi e parecchie regole. Oggi raccontiamo Billie Jean King. E noi come sempre andremo oltre lo sport, e questa volta sarà facile perché questa non è solo una storia sportiva. Billie Jean King, californiana, classe 1943, peraltro è una delle più grandi campionesse di tennis della storia. A 17 anni ha vinto il doppio a Wimbledon, ha collezionato decine di titoli del Grande Slam, è stata protagonista di battaglie importanti sul campo, ma soprattutto ha combattuto battaglie determinanti lontano dal rettangolo di gioco del tennis, e soprattutto lotte per la parità di trattamento tra uomini e donne nel tennis prima, nello sport in generale e di conseguenza nella vita. Era un periodo nel quale quelle rivendicazioni stavano agitando le piazze, diventavano gli slogan del movimento femminista. Beh, la King è diventata il simbolo di quelle istanze sia nell'ambito sportivo che proprio nell'ambito sociale. Nel corso degli anni è stata un po' dimenticata, questo a volte capita. Poi è uscito un film recentemente che le ha ridato notorietà, il titolo è La battaglia dei sessi. Billie Jean King ha il volto di Emma Stone, che parla così della nostra protagonista di oggi. È una donna affascinante e carismatica, ancora piena di energia, molto simpatica e spiritosa. È stata un'avanguardia del femminismo. C'è ancora tanta disparità a livello professionale, dai salari a certi retaggi di comportamenti da parte dei maschi, per non parlare della violenza sulle donne e del femminicidio. Ma dai tempi di Billie Jean sono stati fatti enormi progressi. Billie Jean Moffitt, questo è il suo cognome da nubile, nasce il 22 novembre 1943 in California, famiglia della piccola borghesia americana, genitori conservatori e appassionati di sport. Il padre, prima di diventare un pompiere, ha sfiorato la carriera nel basket professionistico, è arrivato alle soglie dell'NBA, la madre è una patita del nuoto, il fratello gioca nella Major League di Baseball e lei fin da piccola pratica tanti sport, è la perfetta ragazza americana, ma pratica sport considerati tipicamente, diciamo, più maschili. A 10 anni passa dal basket al softball, che sarebbe un baseball per donne, poi approda al tennis su consiglio del padre, primi colpi con la racchetta in un club di Long Beach assieme alla sua amica Susan, amore a prima vista per il tennis, e da questo momento non cambierà più sport. Ricordo un pomeriggio con mia madre nella cucina della nostra casa di Long Beach. Avrò avuto 5 anni. Urlai che da grande sarei diventata la migliore di tutti in qualcosa. Non importa cosa. Lei sorrise e continuò a pelare le patate. «Certo, cara», mi disse. «Adesso però mangiati una mela». A 12 anni partecipa a un torneo a Los Angeles. Non è un evento rilevante per la sua carriera sportiva, però succede qualcosa che probabilmente segnerà il primo passo verso le sue battaglie da donna adulta. È una molla, spesso nella vita succede che gli eventi negativi siano delle molle fenomenali per spingerti oltre. E capita questo: viene esclusa dalla foto di gruppo dei partecipanti perché indossa i pantaloncini da tennis fatti da sua madre invece della tradizionale gonnellina, e questo la fa molto arrabbiare. Lei per anni si ricorderà di quella frustrazione, e quando sei ragazzino le ingiustizie sono ancor più insopportabili. Niente di clamoroso da un certo punto di vista, ma dentro di lei si accende questa miccia. Nelle note biografiche del suo sito ufficiale si legge: ha preso questa ingiustizia, l'ha usata come carburante per alimentare sia il suo gioco sia il suo futuro impegno sociale. Non sapevo se ce l'avrei fatta, avevo solo 12 anni. Certo che lo volevo, ma farcela è tutta un'altra storia. Ricordo che l'ho promesso a me stessa e faccio di tutto per mantenere la parola. È quello che sono davvero. Mi batto per le persone. E sfortunatamente le donne hanno avuto di meno. E siamo considerate qualcosa di meno. E così le mie attenzioni dove dovevano andare? Dovevo farlo. E imparare a rivendicare i tuoi diritti. Ascoltare la tua voce. Nel 1961 Billie Jean ottiene il primo grande successo internazionale. Lei e Karen Anse Sussman, la sua compagna di doppio, diventano la coppia più giovane che vince il titolo di doppio femminile sull'erba di Wimbledon. E nei primi anni di carriera, peraltro dopo l'esploit del 61 a Wimbledon, lei fatica a imporsi sulla scena mondiale. Risultati in singolo circoscritti ai tornei minori, peraltro era un periodo nel quale il tennis femminile era ancora in bilico tra amatorialità e professionismo. L'era open, la cosiddetta era open, inizierà solo nel 1968. Le donne in quel momento non possono costruire una carriera sportiva vera e propria. I premi, a differenza degli uomini, sono molto bassi, ci sono poche campionesse che riescono davvero a vivere di tennis. Tanto è vero che lei, mentre sta muovendo i primi passi nelle classifiche mondiali, è costretta a fare la maestra di tennis a $100 la settimana. Peraltro nel frattempo studia anche all'Università della California. Poi nel 65 sposa uno studente di giurisprudenza, Lawrence King, prende il suo cognome. Da quel momento sarà Billie Jean King. L'anno dopo, nel 66, vince per la prima volta il singolare di Wimbledon e si ripete per i 2 anni successivi e si aggiudica anche gli Australian Open nel 67. Tutto questo la porta a diventare la numero uno al mondo e rimarrà in vetta alle classifica, al ranking, per altri 5 anni. Palmarès straordinario tra doppio e singolo: 20 titoli a Wimbledon, 13 vittorie allo US Open, 4 Roland Garros, 2 Australian Open, insomma 39 titoli del Grande Slam. Però, l'abbiamo detto in apertura, questa non è una storia di record sportivi, anche se stiamo parlando di una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, ma la cosa che ci interessa è un'altra. A partire dal 67 lei comincia a criticare pubblicamente la United States Tennis Association, l'istituzione del tennis di quegli anni, denuncia intanto il fatto che i compensi per le donne sono troppo bassi e tutto questo impedisce lo sviluppo di una categoria di professioniste donne. E nel 68 lei avvia questa campagna pubblica per ottenere premi uguali per uomini e per donne, e qualcosa si muove. Nel 71, per esempio, è la prima atleta a guadagnare $100,000 in vincite. Le disuguaglianze però continuano a essere molto alte e lei spesso minaccia gli organizzatori dei tornei: o garantite compensi uguali oppure non partecipo. Comincia a fare la voce grossa. Nel 72 vince gli US Open e riceve un premio inferiore di €15,000 rispetto a chi aveva vinto tra i maschi, che era Ilia Anastase. E lei afferma, ancora a caldo, appena vinto: l'anno prossimo non ci sarò se i premi non saranno parificati. E ce la fa, perché nel 73 lo US Open è il primo torneo del Grande Slam che mette in palio identiche cifre per donne e per uomini. E l'eco delle sue battaglie va al di là dei campi da gioco, anche perché arriva in un momento preciso, in un momento caldo. La società occidentale è pronta per le battaglie femministe, lei ne diventa il simbolo e il clamore è alto, attira perfino l'attenzione del presidente Richard Nixon, che con una telefonata in diretta nazionale le fa i complimenti, probabilmente complimenti un po' a denti stretti, insomma, conoscendo Nixon. E ovviamente il suo percorso è faticoso, non è privo di sofferenza, è pieno di scontri, di contrasti. E il grande contrasto, per esempio, è quello col presidente della Federazione Americana di Tennis, si chiama Jack Kramer. Lui si oppone con molta forza alle idee di parità dei diritti della King. Lo ricostruisce anche il film La battaglia dei sessi. Billie Jean, stai facendo davvero un grandissimo sbaglio. Sei qui per darci un'altra opzione, Jack? Sono qui per conto della federazione. Sono venuto a chiedere a tutte voi ragazze di non fare nulla di avventato. E cosa ci offri? Io vi offro semplicemente di rimanere nella Federazione Americana di Tennis. Ci state cacciando? Se lo fate sul serio sarete nostri rivali, non abbiamo scelta. Ehi, Peaches, puoi concedermi un'intervista, ragazzi? Mi mancherà la tua bella faccia, Jack, ma fa come vuoi. Vorrei stare in piedi. Un minuto! Se non rimanete nella federazione non potrete giocare il Grande Slam. Ancora un minuto. Niente Wimbledon, niente di niente. Ok, ho capito. Ma come sarà il vostro Grande Slam senza le più forti del mondo? Non sarà così grande. Dopo la chiamata del presidente Nixon, la rivoluzione di Billie Jean diventa veramente clamorosa, porta addirittura alla creazione di una legge importante, il titolo 9. Nixon, il 23 giugno del 72, firma nuove norme antidiscriminazione. Per esempio c'è un passaggio: nessuna persona negli Stati Uniti dovrà essere esclusa in base al sesso dalla partecipazione a un qualsiasi programma educativo o una qualsiasi attività che riceva finanziamenti federali. Insomma, il motore delle femministe comincia a essere pieno di benzina. Billie Jean in particolare nel 73 fonda la VTA, Women's Tennis Association, che riunisce le giocatrici professioniste di tutto il mondo. È uno strumento di pressione fondamentale, direi, per trattare con gli organizzatori dei tornei per ottenere montepremi più equi. La creazione della VTA da parte di Billie Jean scatena una vera e propria guerra tra i sessi, perché i maschi non stanno a guardare, le istituzioni maschili rispondono subito, creano la ATP, Association of Tennis Professionals, cioè il corrispettivo della VTA per il tennis maschile. Lo scontro nel mondo dello sport rispecchia quello che sta succedendo nella società, la consapevolezza femminile cresce e monta la forza delle rivendicazioni, e nel contempo ovviamente si rafforza la resistenza al cambiamento da parte dell'universo maschile. E il campione di questa resistenza dei maschi è un ex tennista professionista che ormai è fuori dalla carriera agonistica, si chiama Bobby Riggs. Riggs lancia una sfida pubblica: batterà tutte le campionesse del nuovo circuito femminile, anche se ormai è avanti con l'età. Non è possibile che una donna sia in grado di giocare a tennis contro un uomo. Questa è una battaglia dei sessi. Riggs ha 55 anni, vive con la convinzione di poter battere anche la migliore delle tenniste. Sembra una questione di orgoglio maschile, la verità è un'altra. Riggs ha fiutato un affare, vuole sfruttare l'attenzione sul tema del confronto uomo-donna per creare un evento di risonanza enorme, anche perché insomma non è proprio una persona cristallina questo Riggs, è un giocatore d'azzardo accanito, ha accumulato debiti su debiti, fiuta proprio l'occasione per fare un po' di soldi, per tirarsi fuori dai guai. Allora parte alla carica e cerca di coinvolgere il nemico, cioè coinvolge il simbolo stesso della battaglia per la parità del tennis, cioè lei, Billie Jean King. Pronto? Ce l'ho fatta! Pronto? Ce l'ho fatta, Billie Jean! Ma chi è? Sono Bobby Riggs. Bobby, come hai avuto il mio numero? Ho chiamato tutti gli hotel di San Diego. Sta a sentire, ho avuto una grande idea. Ok, è mezzanotte passata, possiamo parlare un'altra volta? Noi due, Billie Jean, 3-7, 5-7, scegli tu. Hai bevuto, Bobby? No, neanche un goccio. Che ne dici di maschio contro femmina? Maiale maschilista contro femminista dalle gambe pelose. Oh, senza offesa, sei sempre una femminista. No, sono una tennista e sono anche una donna. Giusto. È esattamente quello che sei e anch'io sono un tennista. E sono un uomo che pensa di poter battere qualsiasi donna sulla terra. Immagina la pubblicità, pensa ai soldi. No. 35.000. Scusa, ma dove li prendi? Lo vedi, sei tentata. No, per niente. Non mi interessa, Bobby, ti saluto. Non attaccare. Comunque me le depilo le gambe. Volevo solo... Billie Jean è molto più seria di Riggs, non è convinta, teme che questa partita possa trasformarsi in una buffonata, teme di buttare via tutte le sue idee, le sue battaglie, di mettere a rischio la sua credibilità, in un primo momento rifiuta. E ci sono anche altre ragioni, peraltro, per cui lei non vuole imbarcarsi in questa avventura, perché in quel periodo sta vivendo battaglie importanti, più intime e personali. Lei è sposata dal 65 con un uomo, Lawrence, ma in realtà ha da tempo una relazione extraconiugale, non con un altro uomo, ma con una donna, Marilyn Barnett, la sua parrucchiera, che diventerà la sua assistente personale, stratagemma che lei usa per averla vicino senza destare sospetti. Allora, Billie Jean, tu cosa vuoi? In che senso? Con i tuoi capelli, cosa vuoi che faccia? Oh. Quello che ti pare li puoi anche tagliare tutti per me. E non ti importa come staresti? Una ragazza carina come te? Io non sono... Non mi sento carina. Ti ringrazio per il complimento. Come hai detto che ti chiami? Marilyn. Insomma, una battaglia pubblica contro le disuguaglianze, ma è anche una battaglia interiore, una battaglia personale contro il pregiudizio e in un certo senso con se stessa. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Billie Jean King, una delle più forti tenniste di sempre, ma soprattutto una protagonista di grandi battaglie che hanno fatto la storia, battaglie per la parità e per la difesa dei diritti delle donne prima e poi anche dei diritti delle comunità gay. Siamo arrivati al 1973 con questa sfida. C'è un ex campione di tennis, Bobby Riggs, uomo, come dire, discutibile, giocatore d'azzardo, indebitato, che in realtà non ha nessun interesse sociale sulla vicenda, semplicemente avendo 55 anni ha lanciato una sfida credibile. Lui dice: anche se non sono più un giocatore attivo, posso battere qualsiasi donna giochi a tennis, compresa Billie Jean. Lei rifiuta prima questa sfida perché teme che l'evento possa delegittimarla, possa diventare una buffonata, poi accetta, spinta da molti ideali e, devo dire, probabilmente anche spinta da una offerta economica veramente notevole. Bobby Riggs era un ex numero uno al mondo. Noi eravamo solo al terzo anno del tennis professionistico femminile. Eravamo in una posizione delicata. Ho iniziato a pensare alla società, alle donne e al senso generale di tutto questo. Sapevo che mi sarei dovuta impegnare. Sapevo che avrei dovuto vincere. Eh sì, sul piatto c'è molto più del denaro e anche di una eventuale brutta figura. C'è una reputazione costruita in anni di battaglie per la parità. C'è la sopravvivenza della WTA, la sua associazione di tenniste donne, che si sta battendo, si è battuta per avere premi uguali agli uomini. Insomma, è un momento delicato, ci sono tutti i risultati conquistati fino a quel momento. Riggs, peraltro, settimane prima aveva già convinto un'altra campionessa a giocare, Margaret Court, e l'aveva battuta in 2-7. Insomma, bisogna correre ai ripari, bisogna smontare questa idea che gli uomini siano comunque più forti delle donne su un campo da tennis. E il giorno della sfida è il 20 settembre 73, Houston Astrodome, siamo in Texas, la battaglia dei sessi sta per cominciare, Bobby Riggs da una parte, Billie Jean King dall'altra, il macho contro la femminista. La scommessa degli organizzatori sul fatto che l'evento avrebbe attirato gente si dimostra vinta alla grande. Nello stadio ci sono 30.000 spettatori, soprattutto ci sono 50 milioni di americani incollati alla TV, cifra che sale a 90 milioni se contiamo che sono collegati 37 paesi. Insomma, per capirci, questa è la partita di tennis più vista nella storia ancora oggi. Bobby Riggs è convinto di battere la rivale, conta sulla sua esperienza e sulla presunta superiorità maschile. Billie Jean non va sprovveduta a quell'incontro, nei giorni precedenti ha preparato con cura il match, ha studiato lo stile dell'avversario. 40 milioni di persone stanno guardando, ha qualcosa da dire? Io ho finito di parlare, giochiamo. La battaglia che tutti stavate aspettando di vedere. La battaglia dei sessi. Un grande boato del pubblico accoglie i due protagonisti che fanno un ingresso spettacolare, insomma, tipicamente americano, un po' discutibile dal mio punto di vista. Lei entra vestita da Cleopatra, sorretta da quattro uomini, e lui arriva su un risciò tirato da belle ragazze che lui chiama le amichette del cuore di Bobby, ma insomma sappiamo come sono gli americani. Comincia la partita, all'inizio sembra mettersi male per la King, forse è emozionata, lo stress, in palio c'è tutto per lei, molto più di quello che c'è in palio per il suo avversario. C'è la dignità, ci sono le sue vittorie già acquisite, c'è il suo orgoglio da femminista, e poi piano piano riesce a applicarla, quella tattica che aveva studiato nei giorni precedenti, attacca costantemente con il serve and volley e costringe Riggs a recuperi faticosi, la butta sul fisico, lui ha 55 anni, ha esperienza ma non riesce a reggere quei ritmi, e Billie Jean King vince in 3-6, 6-4, 6-3, 6-3, e così commenta in conferenza stampa. Amo molto il tennis, volevo che cambiasse da quando ho iniziato questo percorso, pensavo che fosse solo per i ricchi e solo per i bianchi. Da quel giorno, quando a 12 anni mi hanno esclusa dalla fotografia perché non avevo la gonnellina, ho capito che volevo cambiare le cose. E stasera un sacco di persone hanno visto il tennis per la prima volta. Finalmente abbiamo capito che tutto ciò non è impossibile. La vittoria viene poi messa in discussione nei mesi successivi, c'è addirittura una leggenda che dice che Riggs avrebbe scommesso contro se stesso, quindi avrebbe perso apposta, nulla di confermato, forse è l'ultimo colpo di coda di chi si sta opponendo al cambiamento. In realtà dopo quella partita la King diventa ancora più popolare, ancora più influente, Life Magazine la inserisce nella lista delle 100 persone più influenti del XX secolo. It wasn't about tennis. Non si trattava di tennis, si trattava di storia. Si trattava di un cambiamento sociale. It was about social change. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Or- Ormai Billie Jean King è un'icona delle lotte delle femministe americane e non solo. Le rivendicazioni per la parità finiscono anche grazie a lei sulle prime pagine dei giornali. C'è addirittura una maglietta che viene fatta, viene stampata e ne fanno migliaia. Su questa maglietta c'è il punteggio finale della partita. Insomma, i risultati che lei ottiene sono importanti, ma le sfide che riguardano la nostra protagonista non sono finite qui. Perché abbiamo detto che Billie Jean King è omosessuale, vive questa condizione in privato e il marito lo sa, si sono sposati nel 65, lui insomma la protegge in qualche modo, però lei continua a nascondere al mondo il rapporto sentimentale con la sua assistente Marilyn per diverse ragioni. E intanto c'è il tempo impiegato da lei per far pace con la sua omosessualità. Lei stessa insomma ha parlato di un processo molto lungo di accettazione. Poi c'è la paura di perdere tutto quello per cui lei ha lottato. Sono gli anni 70, la rivoluzione sessuale ha permesso alla società di compiere tanti passi avanti, ma questo sarebbe un passo ulteriore, forse il mondo non è ancora pronto, insomma. Potevo già dire negli anni 70 che ero lesbica, ma nel 73 ci fu quella partita incredibile. Avremmo rischiato di perdere tutto. 30 aprile 1981, il New York Times pubblica un articolo scritto da Robert Lindsay. Il titolo: Billie Jean King citata in giudizio per i beni assegnati relativi alla sua relazione lesbica. Marilyn Barnett ormai è un ex assistente e un ex fidanzata. Le due si sono lasciate e questa Marilyn è un po' avvelenata. Ha intentato causa contro di lei, vuole una porzione della proprietà di Malibu comprata da Billie Jean per entrambe. La solita storia, insomma, quando i due si separano, quello più povero massacra quello più ricco. E al di là della vicenda processuale, il fatto rilevante è che ormai la King non può più nascondere nulla e in realtà i suoi avvocati le chiedono di smentire la sua omosessualità per una evidente, precisa strategia processuale. Lei solo inizialmente accetta. All'inizio Billie Jean segue il consiglio dei suoi legali, del marito e della famiglia e cerca di fare passare Marilyn per una rivista che pensa solo ai beni materiali, che vuole sfruttare il suo patrimonio. E poi però non regge più, non vuole mentire. Alla fine, contro il parere di chi le sta vicino, ammette pubblicamente di essere lesbica. And I'd grown up in a homophobic environment. Sono cresciuta in una famiglia omofoba. Fare coming out è stata la più grande lotta che io abbia mai affrontato nella mia vita. Dissi al mio assistente e al mio avvocato che volevo fare una conferenza stampa per dire tutta la verità. Tutti mi dicevano che non potevo farlo perché era una cosa che nessuno aveva mai fatto. E io risposi: non mi interessa cosa hanno fatto le persone prima di me, vi sto dicendo che devo dire la verità. Ammisi pubblicamente di aver avuto una relazione con Marilyn Barnett. Tutti rimasero di stucco. In 24 ore ho perso tutte le mie entrate, ma direi che la verità mi ha liberata. Sì, ho perso tutto, ma va bene. È come ricominciare. But it's okay. It's like you just start over. E le conseguenze di questo coming out sono molto pesanti in quell'America, in quegli anni, e si perde tutto. Infatti lei perde tutto, perde sponsor, perde soldi, perde credibilità. L'improvvisa mancanza di denaro la costringe a giocare ancora per due anni, nell'81 e nell'82, nonostante non ne abbia assolutamente voglia, ma è al verde. Deve pagare gli avvocati che l'hanno difesa nella causa intentata da Marilyn, conseguenze non solo economiche. Nell'87 se ne va anche il paziente marito e lei ormai non ha più bisogno di simulare, di vivere una vita di facciata. Sono passati gli anni, la vita di Billie Jean si è raddrizzata, lei si è presa le sue rivincite. A metà degli anni 90 è stata capitano della squadra di Fed Cup americana, ha portato le tenniste USA alla vittoria del 96, poi ha allenato la squadra olimpica femminile statunitense e sul fronte personale ha ritrovato l'amore con la sua compagna di doppio Ilana Kloss, con la quale sta ancora assieme, insomma, per sua fortuna e anche per fortuna del suo patrimonio. Soprattutto grazie alla sua determinazione e alle sue vittorie riesce alla fine a fissarsi nel ricordo collettivo come un'icona del femminismo, una bandiera. Nel 2001 il Gay and Lesbians Alliance Against Defamation le ha attribuito un riconoscimento ufficiale per avere dato visibilità e importanza alla comunità nel proprio lavoro. Queste sono le motivazioni. E poi arriva l'onore più alto, viene ricevuta dall'allora presidente americano Barack Obama, che l'ha scelta per rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Sochi del 2014 in Russia. Russia è un paese che ancora oggi non dà pieno riconoscimento ai diritti civili. Insomma, Billie Jean King ha vissuto tutta una vita all'attacco, tutta una vita sotto rete, per dirla con gergo tennistico, però alla fine ha vinto quasi tutte le sue battaglie. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, sapete dove trovarci. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese, con la collaborazione degli studenti del Master in Radio, TV e Web Content della 24 Ore Business School. Francesca Agnati, Simona Berruto, Andrea Jacopo Di Pellegrino. La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.